Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Galbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Duroy camminava a passi lenti verso il nido dei suoi appuntamenti, eccitandosi mentalmente contro la padrona. «Ah, che bella accoglienza le farò, se non avrà nulla da dirmi! Il francese di Cambron diventerà aulico a paragone del mio. Intanto le spiattellerò chiaro e tondo che in casa sua non ci metterò più piede». Ed entrò per aspettare la signora Voltaire. Arrivò quasi subito, e come lo scorse fece «Ah, hai ricevuto il mio telegramma? Meno male!» Lui fece la faccia brusca. «Cristo, l'ho trovato al giornale proprio mentre stavo per andare alla camera. Che vuoi ancora da me?» Lei s'era alzata la veletta per baciarlo e stava avvicinandosi con l'aria peritosa e sottomessa ad un can bastonato. «Quanto sei cattivo con me! Perché mi parli così duramente? Che ti ho fatto? Tu non immagini quanto io soffra per te!» Lui brontolò. «Si ricomincia?» Gli era vicinissima, in piedi, e aspettava un sorriso, un gesto per buttarglisi fra le braccia. Mormorò: «Non dovevi prendermi per poi trattarmi così. Dovevi lasciarmi stare. Savia e felice com'ero. Ti ricordi quello che mi dicesti in chiesa e come mi spingesti di viva forza in questo tuo appartamento? E ora, ecco come mi parli, come mi ricevi. Mio Dio, quanto male mi fai!» E portandosi le mani al petto, cominciò a soffocar dai singhiozzi che le facevano nodo in gola. Quando lui vide spuntar le lacrime, prese il cappello sull'angolo del caminetto e disse: «Ah, ti metti a piangere? Allora buonasera! Mi hai fatto venire per assistere a questo bello spettacolo?» Lei fece un passo per sbarrargli la strada e, cavato alla svelta un fazzoletto di tasca, s'asciugò brusca gli occhi. Cercò di rendere più ferma la voce con uno sforzo di volontà e disse a strattoni, con un penoso belato: «No, son venuta per darti una notizia politica, per offrirti il modo di guadagnar 50.000 franchi e anche di più, se vuoi». Raddolcitosi di colpo, lui domandò: «E come? Spiegati». «Ho afferrato per caso iersera certe parole di mio marito e di La Roche. D'altronde non badavano troppo a essere guardinghi davanti a me. Voltaire raccomandava al ministro di non metterti a parte del segreto perché avresti rivelato ogni cosa». Duroy aveva di nuovo posato il cappello su una sedia. Aspettò tutto orecchi. «E allora? Di che si tratta?» «Stanno per impadronirsi del Marocco». E adagio prese a spiegargli come si fosse accorta da un po' di tempo che si stava tramando qualcosa tenendolo all'oscuro, che si servivano di lui mentre ne temevano la collaborazione. Diceva: «Sai, quando si ama si diventa furbe». La sera prima finalmente aveva capito tutto. Si trattava d'un grosso colpo, d'un grossissimo colpo preparato nell'ombra. E sorrideva adesso, felice della propria abilità. Si esaltava parlando da vera moglie d'un affarista avvezza a veder macchinar le manovre di borsa. Ecco qua, la spedizione su Tangeri l'avevano decisa fra di loro fin dal giorno in cui La Roche ha assunto il ministero degli esteri, e a poco hanno riscattato tutto il prestito del Marocco che era caduto a 64-65 franchi. L'hanno riscattato molto abilmente, per mezzo d'agenti ambigui, equivoci, che non suscitavano nessuna diffidenza. Hanno preso per il naso perfino i Rothschild, che si meravigliavano della continua richiesta di redimibile marocchino. Li hanno confusi facendo i nomi degli intermediari, tutta gente tarata in cattive acque. Ciò ha tranquillizzato la grande banca. E ora stiamo per fare la spedizione e appena avremo messo piede laggiù, lo Stato francese garantirà il debito pubblico. I nostri cari amici avranno un guadagno di 50 o 60 milioni. Capisci che affare? E capirai anche come abbiano paura di tutti quanti, paura della minima indiscrezione. Gli aveva appoggiato il capo sul panciotto e con le braccia sulle sue gambe gli si stringeva, gli si appiccicava contro, sentendo bene che adesso lo interessava, pronta a far qualsiasi cosa, a usar tutto per una carezza, per un sorriso. «È davvero un bel colpo», fece Georges. «Quanto a quel porcaccione di La Roche saprò pizzicarlo io, farabutto. Stia attento, la sua carcassa di ministro dovrà lasciarmi sotto le unghie». Poi, dopo un attimo di riflessione, mormorò: «Bisognerebbe comunque approfittarne. Puoi ancora comprare qualche cartella del prestito», disse lei. «È a 72 franchi appena». Lui soggiunse: «Già, ma non ho denaro disponibile». Lei lo guardò con occhi supplichevoli e disse: «Ascolta, puoi fare un'altra cosa senza bisogno di prendere denaro in prestito. Io avevo intenzione di comprare 10.000 franchi di quelle cartelle per crearmi una mia cassetta personale. Bene, ne comprerò per 20.000 franchi. Metà per me, metà per te. Sai bene che non dovrò rimborsare la somma a Voltaire. Perciò sul momento non ci sarà da pagare nulla. Se la cosa riuscirà, ci avrai guadagnato 70.000 franchi. Se non riuscirà, me ne dovrai 10.000 e me li darai quando ti farà comodo». Poiché Georges esitava ancora, aggiunse: «Se ci pensi bene, in realtà è Voltaire ad anticiparti 10.000 franchi. E che sono 10.000 franchi a confronto di ciò che hai fatto per lui?» «Va bene, accetto», le rispose. «Faccio a mezzo con te». Tutta contenta, lei si rialzò, gli prese il volto fra le mani e cominciò a baciarlo in gorda. Stava strusciandogli ad agio una guancia sul petto con compassata svenevolezza e uno dei suoi lunghi capelli neri le rimase impigliato nel panciotto. Lei se ne accorse e un'idea balzana le attraversò la mente, una di quelle ubbie che spesso formano tutto il bagaglio della logica femminile. Cominciò ad avvolgere piano piano quel capello intorno a un bottone. Poi ne attaccò un altro al bottone successivo e un altro ancora a quello di sotto. Ne annodò uno ad ogni bottone. Era un laccio col quale lo legava a sé. Un laccio segreto, invisibile. Un talismano che gli lasciava addosso. Senza volerlo, avrebbe pensato a lei. L'avrebbe sognata, l'avrebbe amata un poco di più l'indomani. Georges disse ad un tratto: «Bisognerà che ti lasci. Alla camera m'aspettano per la fine della seduta. Oggi non posso mancare». Lei sospirò: «Oh, di già». Poi, rassegnata, disse: «Va, tesoro, ma domani vieni a cena da me». E bruscamente si staccò da lui. Lui s'allontanò e disse frettoloso: «Devo scappare, altrimenti arriverò in ritardo». Lei allora gli porse le labbra, che Georges sfiorò appena soggiungendo, dopo averle dato l'ombrellino che dimenticava: «Su, su, sbrighiamoci, sono le 3 passate». Lei lo precedette ripetendo: «Domani alle 7». Lui rispose: «Domani alle 7». Si separarono. Lei voltò a destra, lui a sinistra. Alle 4 era tornato e aspettò la giovane amante. Costei giunse un poco in ritardo perché era arrivato il marito per i suoi 8 giorni. Gli domandò: «Puoi venire a cena domani? Sarò felice di vederti». «No, ceno dal padrone. Dobbiamo occuparci d'un mucchio di faccende politiche e finanziarie». S'era tolto il cappellino. Stava ora togliendosi il corpetto che la stringeva troppo. Anche Clotilde lo chiamava tesoro mio, cocco mio, topolino mio, e gli sembravano parole soavi e carezzevoli. Mentre dette poco fa da quell'altra, lo avevano irritato e stomacato. Proprio vero che le parole d'amore, che son sempre le medesime, prendono il gusto delle labbra che le pronunciano. Ma fra quelle scempiaggini che lo divertivano tanto, non dimenticava i 70.000 franchi che avrebbe guadagnato, e all'improvviso interruppe il cicaleccio dell'amica battendo le 2 colpetti in testa col dito: «Ascolta, Micia, Devo darti un incarico per tuo marito. Digli da parte mia di comprare domani 10.000 franchi di cartelle del prestito marocchino, che è a 72. E gli garantisco che in meno di 3 mesi guadagnerà dai 60 agli 80.000 franchi. Raccomandagli il più assoluto silenzio. Digli, sempre da parte mia, che la spedizione su Tangeri è stata decisa e che lo Stato francese garantirà il debito del Marocco. Ma non ti tradire con nessun altro. È un segreto di Stato quello che ti confido. Lei lo ascoltava seria. Mormorò: «Grazie. Avvertirò mio marito stasera. Oh, puoi fidarti di lui. Non parlerà con nessuno. È un uomo incapace di tradire. Non c'è nessun pericolo». E, senza alzarsi, cominciò a sbottonare il panciotto di Georges. D'un tratto si fermò, tirando con due dita un lungo capello impigliato in un occhiello, e si mise a ridere. «Tò, ti sei portato con te un capello di Madeleine! Che maritino fedele!» Poi, rifattasi seria, esaminò a lungo sulla mano il filo quasi invisibile che aveva trovato e mormorò: «Ma non è di Madeleine, è Bruno!» Lui sorrise. «Deve essere della cameriera!» Ma lei ora ispezionava il panciotto con l'attenzione d'un poliziotto e prese un secondo capello attorcigliato intorno a un bottone. Poi ne scorse un terzo e, impallidendo, colta da un lieve tremito, esclamò: «Sei andato a letto con una donna che ti ha attaccato i suoi capelli a tutti i bottoni, eh?» Lui, sorpreso, balbettò: «Ma no, ma sei matta!» Subito si ricordò, capì, si turbò un attimo, poi negò ridacchiando, non dispiacendogli in fondo che lei immaginasse qualcosa dei suoi successi con le donne. Clotilde continuava a cercare e a trovar capelli che sfilava svelta e gettava sul tappeto. Col suo scaltro istinto di donna aveva indovinato tutto e balbettava furibonda, stizzita e lì lì per scoppiare in lacrime: «È una che t'ama questa! Ha voluto che tu portassi via qualcosa di lei! Traditore che non sei altro!» Poi lanciò un grido stridulo di gioia nervosa. «Oh, è una vecchia! Ecco un capello bianco! Ah, ti metti con le vecchie adesso! Di, ti pagano per caso? Ti pagano? Ah, con le vecchie ti sei ridotto ad andare! Allora non hai più bisogno di me! Tienti quell'altra!» Si alzò, corse a prendere il corpetto buttato su una sedia e se lo rimise in fretta. A Duroy, rimasto solo, prese una rabbia furiosa contro quella vecchia della malora di mamma Walter. Se l'avrebbe mandata a farsi friggere quella lì e senza tanti complimenti. Non aveva voglia d'andare al giornale. Preferiva, prima di riveder Walter e di scrivere l'articolo, parlare con Madeleine e s'avviò verso casa. Giunto in Rue Drouot, si fermò di colpo. S'era dimenticato di informarsi sulla salute del conte de Vaudrec, che abitava nella Chaussée d'Antin. Tornò indietro, sempre bighellonando e pensando a mille cosucce, in una sorta di beata fantasticaggine. Cose dolci, belle, alla fortuna ormai prossima, e anche a quel mascalzone di La Roche, a quella vecchia bisbetica della padrona. Al portiere della casa dove abitava il conte de Vaudrec domandò: «Come sta il signor de Vaudrec? M'hanno detto che in questi ultimi giorni si è sentito male». L'uomo rispose: «Il signor conte è gravissimo. Forse non arriverà domattina. La gotta ha raggiunto il cuore». Duroy rimase talmente sbigottito da non saper più che fare. Vaudrec moribondo. Idee confuse gli affollavano la mente, idee sconcertanti, idee che non osava confessare a se stesso. Senza capir ciò che stava dicendo, balbettò: «Grazie, ripasserò». Poi saltò in una carrozza e si fece portare a casa. Sua moglie era già tornata. Entrò in camera trafelato e le annunziò a bruciapelo: «Ma lo sai che Vaudrec è moribondo?» Lei era seduta e stava leggendo una lettera. Alzò gli occhi e per 3 volte di seguito ripeté: «Ah? Che dici? Ma che dici? Che dici?» Dico che Vodrek sta morendo. Un attacco di gotta gli ha colpito il cuore. Poi aggiunse: cosa pensi di fare? Lei s'era alzata in piedi, livida, le guance percorse da un tremito nervoso. Poi scoppiò in un pianto dirotto, coprendosi il volto con le mani. Ma dominò subito la sua angoscia e, asciugatisi gli occhi, disse: vado, vado là io. Non pensare a me. Non so a che ora tornerò, non mi aspettare. Lui rispose: va bene, vai. Madeleine rincasò verso mezzanotte. Georges, svegliato all'improvviso, si sedette sul letto. Domandò: beh? Non l'aveva mai vista così pallida e scossa. È morto. E non ti ha detto nulla? Nulla. Quando sono arrivata aveva già perduto la conoscenza. George era soprappensiero, pieno di domande che non osava fare. «Vieni a letto», disse. Lei si spogliò svelta, poi si infilò sotto le lenzuola accanto a lui. George riprese: «C'era nessun parente al suo letto di morte?» «Soltanto un nipote». «E lo vedeva spesso questo nipote?» «Mai. L'ultimo loro incontro avvenne 10 anni fa». «Ne aveva molti di parenti?» «No, che io sappia». «Allora è quel nipote l'erede?» «Non lo so. Era molto ricco, Vodrek?» «Sì, ricchissimo». «Sai pressappoco quanto aveva?» «No, esattamente no. Credo 1 milione o 2». Lui non disse più nulla. Lei spense la candela. E rimasero adagiati l'uno a fianco dell'altro al buio, silenziosi, svegli e pensierosi. George non aveva più voglia di dormire. Gli sembravano magrolini adesso i 70.000 franchi promessi dalla signora Walter. D'un tratto gli parve che Madeleine singhiozzasse. Per accertarsene domandò: «Dormi?» «No». La sua voce era molle di pianto e tremolante. Lui soggiunse: «Oggi pomeriggio mi sono scordato di dirti che il nostro ministro ci ha fottuti». «E come?» Le raccontò per filo e per segno, in ogni particolare, quanto avevano combinato insieme La Roche e Walter. Quando ebbe finito, lei gli domandò: «Come l'hai saputo?» Lui rispose: «Permetti che non te lo dica? Tu hai le tue fonti di informazione che io non cerco di scoprire. Io ho le mie, che desidero tener per me. Ti garantisco comunque l'esattezza delle notizie». Lei allora mormorò: «Sì, è probabile che sia così. Sospettavo anch'io che stessero tramando qualcosa alle nostre spalle». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.